Cappa. È l'ora. Ma che ora? L'ora di perdere ogni legame con il qui e con l'adesso. Eh? Cappa, è l'ora di entrare per pochi secondi in un mondo parallelo no, in cui... No, Drago, l'eroina non ti fa bene, cioè non è che... Va? È finita la moda dell'eroina. A meraviglia. Sta tornando. Guarda come sei. Ma un mondo abitato da esserini pelosi con un corpicino caldo e il cervello grande quanto un'albicocca. Drago. È l'ora di entrare... nel mondo di Pushigè. Aspetta, finisco il Campari e arrivo. Si entra in punta di piedi. Pushigè. Il mondo più bello che c'è. Che meraviglia. Pushigè. Anche se vedi non credi al mondo di Pushigè. La cosa che gli incuriosisce veramente, metti che uno che non ha mai sentito Chiedo Asilo e che però sente Radio 24 per l'informazione, la borsa in diretta, la strada improvvisamente in sente entra in un mondo fatato, sicuramente ne trarrà benefici, ma servizio. Certo. Ah, ho capito. Manager stressati, chiudetevi nel vostro ufficio, nella vostra automobile e lasciatevi conquistare dal mondo di Pushigè. Ma dici che finisce l'effetto di Pushigè? Non so, però un po' dovrà finire, perché sennò ci... Io qui, veramente... Sarà in punta di piedi nel mondo più bello che c'è. Anche se vedi non credi al mondo di Pushigè.